0269. Le incredibili avventure de... Papà, papà! Ciao, cosa? Papà, so cosa voglio fare della mia vita. E cioè? Allora, voglio fare l'astronauta oppure il venditore di condoms agli angoli delle strade. Ma va là che ti prendo a nerbate. Ah no, allora meglio che vada all'università. Ma scusa, non puoi andare a lavorare nei campi di famiglia con le capre, non lo so. No, no, guarda, voglio fare il sociologo, scelto. Il sessuologo che? No, no, sociologo. E cosa fa il sociologo? E beh, non lo so, ma quando mi laureo te lo dico. Vieni qua, disgra... Aia, no, Continua.